Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Incendi, quasi 400 i roghi attivi al momento e nuovo focolaio individuato sul Vesuvio. L'esercito blocca gli accessi al parco del vulcano. Erano 4,7 milioni gli italiani poveri nel 2016, numeri in linea con quelli dell'anno prima. Sale l'incidenza tra le famiglie con tre o più figli. Nuova intimidazione alla scuola Falcone Borsellino dopo la devastazione della statua del giudice ucciso. È stata lasciata davanti alla scuola appunto una testa di uccello mozzata. Spiaggia fascista di Chioggia, indagato il gestore, è stato denunciato dalla Digos per apologia di fascismo, per le frasi e i cartelli. Terremoto ed SMS solidale, polemica sulla regione Marche, dei 17 milioni e mezzo incassati, oltre 5 serviranno per una pista ciclabile. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri SMS e per i messaggi su WhatsApp. Siamo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook, così come sulla pagina Facebook di Radio 24, diretta video. Ci potete vedere anche là se volete, per quella di oggi che è la penultima puntata di Effetto Giorno prima della pausa estiva. Domani sarà l'ultima e magari domani torneremo, come tanti ascoltatori ci stanno chiedendo in questi giorni, a parlare della vicenda di Igor il Russo, ormai scomparso. Tra l'altro abbiamo un altro paio di latitanti in giro, di persone fuggite dalle carceri che non si riescono a trovare, a partire da Johnny lo Zingaro, si chiamano tutti così, chissà come mai. Iniziamo la giornata parlando di incendi e lo facciamo con la nostra Raffaella Calandra per un aggiornamento e per una situazione che sta diventando sempre più difficile. Raffaella, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. L'esercito a bloccare ogni strada verso il Vesuvio, reparti specializzati pronti ad entrare in azione nei focolai ancora aperti nel Messinese e anche tre aerei in arrivo dalla Francia. Misure eccezionali per un'emergenza, quella appunto degli incendi, che quest'anno sembra più grave che mai. Ancora nuovi roghi sono stati segnalati infatti sulle pendici del Parco Nazionale del Vesuvio, che brucia da giorni con famiglie barricata in casa. Qui altri militari stanno andando a rinforzare le file dei 48 uomini del gruppo tattico Terra dei Fuochi, che al momento hanno solo 4 mezzi. Terzigno, Ercolano, Torre del Greco e San Sebastiano. Il fronte è assai vasto, come la crisi tuttora in atto. In Campania come in Sicilia, le due regioni dove si concentrano la maggioranza dei 400 roghi ancora attivi al sud, stando alle ultime indicazioni del ministro dell'Ambiente. Nell'isola, dopo l'emergenza di ieri a San Vito Lo Capo, con turisti soccorsi anche con le barche, un fronte ora preoccupa a Monreale, nel palermitano, e a Adrano, nel catanese. Un altro ancora a Librizzi, nel messinese. È qui che la situazione quest'anno è stata più grave che nel passato, con fiamme arrivate a lambire i palazzi delle zone residenziali e l'università evacuata. Una gravità che preoccupa anche il procuratore aggiunto Giovannella Scaminaci, che ha fatto un sopralluogo. Le fiamme sono arrivate all'Annunziata a lambire i fianchi dei palazzi. I fumi erano tali che molte famiglie sono dovute andare via, oltre che lambire l'università, che è stata evacuata per i fumi. Quando si vedono invece le fiamme che arrivano a lambire davvero i quartieri di una città, e allora si percepisce la gravità della situazione. Qui come in altre città della Sicilia dove sono state aperte delle inchieste, anche appunto poi nelle procure del Napoletano si indagano su vari interessi in atto che possono esserci dietro questi roghi, ma anche sulle possibili carenze e omissioni nella prevenzione. Ancora il procuratore aggiunto messinese Scaminaci. Dei vari interessi nel rinverdire delle zone di pascolo, nel ottenere autorizzazioni a transitare da certe zone di macchia o di bosco. Anche gli agricoltori a volte possono avere interesse, da un punto di vista della negligenza che poi sconfina nel dolo, a ripulire i propri terreni senza fare le opere cosiddette tagliafuoco. Dalle autorizzazioni alla transumanza, all'esecuzione di queste opere di prevenzione, alla regolarità dei soccorsi, è chiaro che il quadro è molto complesso. E quindi lo stiamo verificando in ogni aspetto. Il tutto con lo sfondo della malavita organizzata tanto in Sicilia quanto in Campania. Simone, è tutto. E grazie dunque alla nostra Raffaella Calandra per questo aggiornamento. C'è un altro fronte evidentemente che riguarda gli incendi ed è quello della prevenzione e delle competenze che hanno a che fare tanto con la prevenzione quanto con lo spegnimento degli incendi. E il problema è oggettivo e c'è, e l'abbiamo visto in questi giorni. Sentiamo. Chiaramente alcune cose vanno ancora devono essere ancora sintonizzate, però il lavoro che fanno le squadre antincendio assolutamente è di altissimo livello. Però quello che dico, spendiamo come sistema paese tanti soldi in questa organizzazione ed è giusto che li spendiamo. Io credo che se di questa quantità di soldi investissimo una parte di questa nel fare una prevenzione di carattere selvicolturale, cioè una riduzione del carico di combustibile all'interno del bosco, avrebbe dei risultati probabilmente molto, molto più efficaci poi nel medio e lungo termine. Noi calcoliamo che circa un 40-50% dei boschi italiani oggi sono abbandonati da un punto di vista della gestione selvicolturale. E quindi ora non tutti questi boschi sono poi ad alto rischio di incendi, ma una buona parte di essi lo sono, e quindi è lì dove si creano quelle condizioni di particolare difficoltà. Questa era un'intervista realizzata dalla nostra Laura Bettini a proposito appunto di questi temi. Veniamo alla questione della povertà, ci sono i dati diffusi questa mattina dall'Istat, sentiamo. Allora, no, abbiamo un problema, vediamo un attimo se riusciamo a recuperare il servizio sull'Istat. Intanto possiamo andare a parlare di migranti, perché le notizie di oggi ci raccontano del ministro dell'Interno Marco Minniti, che si rivolge ai sindaci della Libia e dice: facciamo un patto per liberare le nostre terre dai trafficanti, insieme nessun obiettivo è precluso. Lo scrive un tweet dell'ambasciata d'Italia a Tripoli, perché oggi appunto il ministro dell'Interno Minniti era proprio in Libia per parlare di questo. Intanto, mentre i dati di Frontex indicano un più 21% di arrivi in Italia, con 85.000 persone sbarcate dall'inizio dell'anno, un gruppo di ultradestra affitta una nave per cercare di bloccare i migranti. Dicono di voler salvare l'Europa dai migranti e dalle ONG che sul loro sito definiscono criminose. Per questo un gruppo di attivisti italiani, austriaci e francesi del movimento di destra Generazione Identitaria ha affittato una nave, la Sea Star, per andare in acque libiche e impedire ai migranti di arrivare in Europa. La nave partirà da Catania tra il 17 e il 20 di luglio, una missione che al momento ha un sapore piuttosto velleitario e anche ai limiti della legalità. Lorenzo Fiato, studente di 23 anni, è il portavoce italiano della missione. Vogliamo fermare le navi delle ONG, non tanto il salvataggio, anche la nostra nave è fatta per questo genere di cose. E nel caso in cui vi capitasse di salvare dei migranti, poi cosa fareste? Contattiamo la Guardia Costiera Libica e ci coordiniamo con loro per capire la cosa migliore da fare. Quindi voi rispondete alla Guardia Costiera Libica, non a quella italiana? L'idea è quella. Infatti a noi serve molto un contatto anche per questo genere di cose. Se non l'avete ancora un contatto? No, è molto difficile. Infatti se noi non riusciamo ad ottenere un contatto prima di partire, abbiamo l'intenzione di andare direttamente a Tripoli a parlare con le autorità di lì. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso, come si diceva, abbiamo finalmente il servizio pronto. È il servizio che dicevamo sulla povertà. I dati dell'Istat diffusi oggi ci raccontano che 4,7 milioni di italiani sono in povertà, un dato in linea, almeno nel 2016, è un dato che è in linea con quello del 2015. Sentiamo. 1.619.000 famiglie, nelle quali vivono 4.742.000 persone. Pochi scossoni, ma numeri sempre importanti per raccontare l'Italia in povertà. I nuclei che soffrono di più sono quelli più numerosi, se nel 2016 l'incidenza della povertà assoluta sale al 26,8% dal 18,3% di un anno prima, nelle famiglie con tre o più figli minori. Incidenza in aumento anche a voler considerare i minori stessi in povertà, 1.292.000 nel 2016. Povertà assoluta che aumenta al centro Italia, a causa soprattutto del peggioramento registrato nei comuni fino a 50.000 abitanti al di fuori delle aree metropolitane. Dati che si confermano stabili anche sulla povertà relativa. Nel 2016 ha riguardato il 10,6% delle famiglie residenti in Italia. A soffrire le più numerose e quelle più giovani, dove raggiunge il 14,6% se la persona di riferimento è un under 35. Annalita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come si diceva, veniamo adesso al resto della cronaca, a partire dalla nuova intimidazione alla scuola Falcone di Palermo. Nuova intimidazione alla scuola Giovanni Falcone nel quartiere Zen di Palermo, dove già nei giorni scorsi alcuni balordi avevano decapitato la statua del giudice ucciso dalla mafia. Questa volta un uccello con la testa mozzata è stato ritrovato nell'atrio dell'istituto, a pochi metri dalla base su cui fino a pochi giorni fa era installato il busto del magistrato ucciso nella strage di Capaci e divelto per essere scagliato contro una vetrata della scuola. L'ultimo atto vandalico all'istituto aveva sollevato indignazione in tutta Italia e anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sul suo profilo Twitter aveva scritto che oltraggiare la memoria di Falcone è una misera esibizione di vigliaccheria. Per gli inquirenti si tratta di un messaggio intimidatorio. All'Istituto Falcone il prossimo 19 luglio, giorno in cui si celebra il 25esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, è attesa la visita del ministro dell'istruzione che incontrerà la preside Daniela Loverde. La Fedeli aveva già definito un episodio grave e vigliacco il primo atto di vandalismo avvenuto nella scuola e aveva espresso tutto il suo sostegno e la sua vicinanza. La sorella del magistrato ucciso ha invece chiesto maggiore vigilanza. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proprio Daniela Loverde, la dirigente dell'istituto, sarà nostra ospite più avanti. Ci faremo raccontare qualcosa di più di quello che hanno trovato questa mattina, di quello che è successo nelle ultime ore. Cercheremo di capire da lei da cosa dipende questa intimidazione. Restiamo sulla cronaca. Indagato il gestore della spiaggia fascista, cosiddetta di Chioggia. È indagato per apologia di fascismo dalla Procura della Repubblica di Venezia Gianni Scarpa, gestore della spiaggia Punta Canna di Pioggia, iscritto nel fascicolo d'inchiesta aperto dai magistrati dopo la denuncia trasmessa dalla Digos sui cartelli esposti nel lido balneare sui deliranti discorsi antidemocratici e inneggianti al regime, discorsi che Scarpa sabato scorso ha pronunciato e diffuso per la spiaggia attraverso gli altoparlanti. Intanto i cartelli con le foto di Benito Mussolini e gli slogan e simboli richiamanti il ventennio sono già stati rimossi per ordine del prefetto di Venezia Carlo Boffi. Cartelli e frasi che Scarpa, per giustificarsi, ha definito semplici goliardate, una vicenda che oltre alle conseguenze penali per il gestore potrebbe portare alla revoca della concessione demaniale del Lido. I titolari della licenza a questo punto non escludono di licenziare il gestore, a loro dire l'unico autore dei cartelli incriminati. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Andiamo a Roma adesso, dove oggi è stata inaugurata la nuova sede di BNL. È intervenuto il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che ha parlato anche di economia e di banche. Giorgio Stamatopoulos, buongiorno. Sì, buongiorno. Un intervento a tutto campo oggi, quello del Presidente del Consiglio, che è riuscito in un intervento piuttosto lungo a toccare un altro tema caldo, quello dell'immigrazione. Ma come ricordavi tu, sicuramente i capitoli più importanti sono quelli che riguardano l'economia. E allora cominciamo da sempre difficile rapporto tra l'Italia e Bruxelles. La richiesta avanzata alla Commissione europea di rivedere le posizioni sulla flessibilità non è uno sconticino chiesto dall'Italia, ha sottolineato Gentiloni, ma una richiesta che accomuna ben 7 Stati membri. E poi il Presidente del Consiglio ha ricordato con soddisfazione che è arrivata una risposta positiva dall'Europa, una volta tanto, quantomeno possibilista, appunto, la replica arrivata da Bruxelles su questo fronte. Gentiloni poi è tornato a difendere gli interventi succedutisi nel tempo in questi ultimi anni a sostegno del sistema del credito italiano. Nessun aiuto ai banchieri, è tornato a ripetere, piuttosto a migliaia di risparmiatori e piccole imprese. Ma potremmo sentire un breve passaggio. Io rivendico il fatto che i governi che si sono succeduti negli ultimi anni, quello presieduto da Matteo Renzi e quello che ho l'onore di presiedere, abbiano lavorato intensamente in collaborazione con la Banca d'Italia e le istituzioni europee per consolidare la situazione e per salvare gli istituti che erano in maggiori difficoltà. In prima fila ad ascoltare il Presidente del Consiglio, oltre alle massime cariche locali, il Presidente della Regione Lazio Zingaretti, il Vice Sindaco della Capitale, c'erano, e questo vale la pena di sottolinearlo proprio in questo contesto, anche il Governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, e il suo Direttore Generale, Salvatore Rossi. Dicevamo tanti altri temi, avremo modo di darne conto nel corso delle prossime edizioni. Per il momento, se non hai domande, ti restituisco la linea. No, grazie. Grazie a Giorgio Stamatopoulos. Per quanto riguarda la politica, più puramente la politica, resta alto lo scontro tra Renzi e altri pezzi del Partito Democratico, nella fattispecie Letta. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Ultimo giorno uno scontro, quello tra Renzi e Letta, che si sta allargando anche alla parte che è uscita dal PD all'epoca dei fatti, minoranza del Partito Democratico. Secondo Renzi il cambio a Palazzo Chigi gli fu chiesto anche da questa componente sull'onda del suo successo alle primarie, ma c'è ancora qualcuno in giro che può credergli a quest'uomo qui, replica però questa mattina Bersani, ex segretario del PD ed ora esponente di Articolo 1. Nel vocabolario di Rignano, aggiunge Bersani, riferendosi sempre a Renzi e anche alle sue parole sui rapporti tra MDP e Pisapia, ci sono molte P come potere poltrone, mancano la C di coerenza e la D di dignità. Renzi però ribadisce comunque la sua versione della caduta del governo Letta: non l'ho voluto io, ma è stato giusto fare il cambio della guardia, è stato sicuramente per me un problema, io non lo volevo fare. Il punto, aggiunge l'ex premier, è che quel governo non funzionava, l'unica cosa che si ricorda è l'aumento dell'IVA. Altro fronte di polemica è il presunto accordo tra Berlusconi e D'Alema, che portò secondo Renzi alla rottura del patto del Nazareno. Ricostruzione ridicola per D'Alema, no comment ancora da Berlusconi, che parlerà però questo pomeriggio. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta anche per questo aggiornamento. Oggi sono stati diffusi i dati dell'ICE sul commercio estero. Vento in poppa per l'export. Nei primi quattro mesi di quest'anno le esportazioni italiane sono infatti cresciute del 6,6% rispetto a una previsione per l'intero 2017 di un aumento tra il 3 e il 4%, quindi con la possibilità per quest'anno di superare le stime. A tracciare il bilancio all'Istituto del Commercio Estero nel rapporto 2016-2017. Dati estremamente positivi, commenta il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda e aggiunge: anche se a fine anno la performance sarà più normale, sarebbe una crescita molto importante. A oggi, grazie ai risultati, l'Italia ha comunque guadagnato una posizione nella classifica degli esportatori mondiali, raggiungendo il nono posto con 462 miliardi di dollari e il sesto posto per saldo commerciale positivo per 57 miliardi di dollari. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Prima di chiudere questa prima parte della trasmissione andiamo a parlare di sport. Prima ancora di toccare il tema del calcio e soprattutto del calciomercato, Dario Ricci, ti voglio portare su un appuntamento che si apre domani ed è importante, i mondiali di nuoto. Ciao Dario. Ciao Simone, sì, ci si tuffa nelle piscine e nelle acque per quanto riguarda il nuoto di fondo di Budapest, tanta attesa fino al 30 luglio e tanti campioni, vi ricordo solo i nomi dei più attesi fra gli azzurri, Paltrinieri e Detti, che dopo le scintille e i trionfi di Rio 2016 saranno impegnati su 1500-800 e Detti anche sui 400, e poi occhio al talento emergente Niccolò Martinenghi, 17 anni, vero fenomeno della rana, l'erede di Fioravanti e Scozzoli, e poi Federica Pellegrini, la divina, vabbè. Sempre a caccia di una ennesima medaglia iridata per riscattare quell'amaro quarto posto di Rio nei 200 stile libero, ed è scritta anche ai 100 stile libero, vedremo se poi li farà. E poi sette rose e sette bello, perché che difendiamo di fatto ai massimi livelli l'argento delle donne di Rio e il bronzo degli uomini. Tanto per dare un assaggio di un menù ricchissimo, non ci sarà Tania Cagnotto, che con Francesca Dalla Pè si è ritirata. Beh, i tuffi svoltano decisamente pagina. Dario, brevemente, il mercato di oggi che cosa ci dice? Beh, sul calcio? Il mercato, riflettori su Leonardo Bonucci, che sembra in uscita dalla Juventus dopo la tribolata, seppur vincente, annata dello scorso anno, gli attriti con Allegri davvero sembrano pronte ad arrivare le offerte. Si parte da una base d'asta di intorno a 50 milioni di euro per quello che al momento è uno dei più forti difensori al mondo, e poi occhio oggi a Wimbledon, semifinali donne, e a una grandissima tappa del Tour de France, si va sui Pirenei, sei gran premi della montagna saranno scintille, speriamo favorevoli a Fabio Aru nel duello con Froome. Grazie a Dario Ricci, tutto materiale anche per tutti i convocati a partire dalle 14, con molto ritardo, chiedo scusa ai colleghi che si occupano delle strade, diamo la linea appunto al traffico, ci ritroviamo subito dopo, iniziamo il nostro giro per l'Italia, iniziamo da Palermo e parleremo anche di questa vicenda invece delle Marche, dell'SMS solidale. Sono arrivati 17 milioni e mezzo per gli SMS solidali per il terremoto, e beh, una fetta consistente verrà utilizzata per fare una pista ciclabile. Effetto giorno. Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp e la nostra pagina Facebook, così come la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo anche in diretta video, e se volete potete seguirci anche là e potete commentare anche là. Come si diceva, penultima puntata di Effetto Giorno, qualcuno su Facebook, Giovanni, che è un fedele ascoltatore, ci scrive quando ricomincia Effetto Giorno, perché oggi, come si dice appunto, è la penultima puntata, ricominceremo a settembre naturalmente. Di che cosa abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione? Degli incendi, perché sono ancora quasi 400 i roghi attivi al momento e c'è un nuovo focolaio individuato sul Vesuvio. L'esercito intanto ha bloccato gli accessi al parco del vulcano e ovviamente si indaga sulle cause, soprattutto sui piromani. Abbiamo parlato dei dati sulla povertà, perché erano 4,7 milioni gli italiani poveri nel 2016, numeri in linea con quelli dell'anno prima. Sale l'incidenza tra le famiglie con tre o più figli. Abbiamo parlato, e ci torneremo tra un attimo, della nuova intimidazione alla scuola Falcone Borsellino dopo la devastazione della statua del giudice ucciso. È stata lasciata davanti alla scuola un uccello con la testa mozzata, e poi della spiaggia fascista di Chioggia, perché è indagato il gestore, è stato denunciato dalla Digos per apologia di fascismo per le frasi e i cartelli che avete visto. Infine la vicenda del terremoto e l'SMS solidale sulla regione Marche, c'è una polemica: dei 17 milioni e mezzo incassati, oltre 5 serviranno per una pista ciclabile. Questo è il quadro, questo è il quadro delle notizie, mentre ho dall'altra parte il vetro la nostra Laura Faggin che mi fa qualche segnale, perché avevamo qualche problema a raggiungere gli ospiti di oggi. Una giornata un po' così, come si diceva, penultima giornata di Effetto Giorno, qualche piccolo errore, qualche piccolo problema in scaletta, ma ci siamo. Daniela Loverde, preside dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Palermo, buongiorno, benvenuta ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Allora, quello che è stato trovato stamattina è un uccello con la testa mozzata, un fatto che segue di pochi giorni l'utilizzo della statua di Giovanni Falcone come una sorta di ariete contro il portone della scuola. Si tratta ovviamente, preside, di un intimidazione, no? Noi non lo sappiamo se leggerla in questo modo. Fatto è che a distanza di due giorni un altro episodio che ci riporta in qualche modo a una riflessione che è necessario fare, ma che non ci impedisce di andare avanti e proseguire col nostro lavoro, che è caratterizzato da un'attività costante che noi facciamo in favore di questo quartiere, di questa utenza, dei nostri bambini. Voi il quartiere nel quale lavorate è lo Zen di Palermo, che è un quartiere difficile, Loverde. È un quartiere molto difficile, un quartiere di periferia, peraltro non piccolo, perché comprende più di 20.000 abitanti e che è isolato dalla città. Pensi che la scuola è posta all'interno del quartiere, in una strada senza uscita praticamente, quindi è isolato nell'isolamento. Ci sono stati in passato episodi di questo genere che hanno riguardato la scuola, o in qualche modo, come a volte accade anche nelle scuole di quartieri difficili, era una sorta di zona franca da questo punto di vista? Io sono qui da 4 anni, questo è il mio 4º anno di presidenza in questa scuola, e in questi 4 anni fondamentalmente non era successo niente di eclatante, se non qualche vetro rotto o qualche furto di qualche fruttarello di qualcosa. Però so che negli anni precedenti c'era stata una devastazione della scuola, sia era stato preso di mira sia la sezione dell'infanzia, sia per quanto riguarda gli uffici e l'amministrazione, erano stati rubati tutti i computer, era stato tutto devastato. Ascolti, Loverde, ma c'è nel lavoro che fate, c'è qualcosa che può essere connesso a questi fatti? Intendo, c'è qualcosa che fate che può essere considerato fastidioso per qualcuno? Non lo so, io non lo so questo. Sicuramente noi portiamo avanti le idee del giudice Falcone, commisurandole chiaramente all'età dei nostri alunni, e quindi per quello che ci riguarda la lotta alla mafia è invece invito alla correttezza, al rispetto dell'altro, a partire dal compagno, al rispetto dell'arredo scolastico, al rispetto a 360 gradi. E questo avviene da quando entrano a quando se ne vanno, ma anche nelle attività pomeridiane che noi a volte seguiamo, o in messaggini che ci vengono posti come consiglio, perché anche questo noi facciamo, perché il nostro lavoro non si esaurisce con la campana che suona, ma continua tutta la giornata. Come del resto è giusto che sia. Un'ultima domanda più tecnico-pratica, preside, e riguarda la questione delle telecamere. L'altro giorno, da quel che abbiamo capito, quando è successo quello che è successo, le telecamere erano rotte, e forse non è un caso che l'utilizzo della statua in quel modo sia avvenuto proprio nel momento nel quale le telecamere erano rotte. Questa volta ci sono delle immagini, sono state ripristinate le telecamere oppure no? No, ancora non avevamo avuto il tempo di farle ripristinare, per quanto ci stiamo provando, e diversi enti sia pubblici che privati ci stanno, come dire, offrendo il loro aiuto. L'impianto antintrusione era funzionante ed è funzionante, però l'allarme non è scattato perché nessuno è entrato all'interno dell'istituzione scolastica, perché la statua era posta accanto al portone d'ingresso, e anche l'uccellino è stato rinvenuto davanti al portone d'ingresso. La ringrazio. Sì, prego. Videocamere ancora qualche giorno, ma saranno ripristinate. Grazie Daniela Loverde, preside dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone dello ZEN di Palermo, le auguriamo buon lavoro. Angelo Sciapichetti, assessore regionale alla Protezione Civile delle Marche, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a lei. Allora, ci sono anche le interrogazioni parlamentari, perché questa storia dell'SMS solidale per il terremoto sta facendo imbestialire parecchia gente, che magari questo SMS solidale l'ha mandato, e che con questo SMS solidale per il terremoto sono arrivati 17 milioni e mezzo alle Marche, e cosa fate? Utilizzate 5 milioni e mezzo per fare una pista ciclabile, Sciapichetti? Guardi, bisogna che la raccontiamo, la spieghiamo la cosa, perché altrimenti ovviamente... Questo l'abbiamo chiamata. Ecco, io la ringrazio perché ci permette di spiegare la cosa, il ragionamento che c'è a monte. La Regione Marche ha finanziato 71 con 15 milioni di fondi europei, unica regione delle quattro terremotate, la ricostruzione di 71 scuole. La Regione Marche, come le altre regioni, ha finanziato tutto il piano ricostruzione per le abitazioni pubbliche e private che sono finanziate. La Regione Marche, come le altre regioni, ha finanziato tutto il piano per la riapertura e la messa a posto in sicurezza delle strade di tutto il cratere. Allora abbiamo ragionato sul fatto che potevamo prendere in considerazione quello che i sindaci del territorio, l'Unione Montana del territorio, i convegni che si susseguono ogni giorno sulla ricostruzione socio-economica post terremoto ci dicono che per rilanciare quell'area bisogna uno degli asset, uno dei motori di sviluppo può essere il turismo. Abbiamo pensato perché è inutile che ricostruiamo le abitazioni e poi i giovani non hanno occasione di lavoro in quelle zone che già soffrivano di spopolamento, è chiaro che se non ci sono occasioni di lavoro i giovani non ritornano. Allora abbiamo pensato di finanziare in parte, sì, un'opera che tutto il territorio ci chiedeva da anni e che ritiene strategica per lo sviluppo del turismo. E quindi finanziando una ciclovia che è un'infrastruttura, sì, che una volta terminata... Allora, il discorso Sciapichetti, allora il discorso mi è chiaro, cioè voi dite con questi soldi noi in parte finanziamo un'opera che è utile per tutto il territorio, per far sì che ci sia più turismo, creare occupazione e così via. E questo è un punto interessante. Perché però c'è l'altro punto. Però Sciapichetti c'è l'altro punto. C'è il punto che uno dice: vabbè, però c'è ancora della gente fuori di casa. Sì. Primo. B, io quando mando quell'SMS solidale lo mando per un aiuto immediato, per far sì che la gente non stia per strada o sia costretta a stare in albergo, eccetera eccetera, e quindi quando vedo che il mio SMS solidale finisce ad una pista ciclabile, pur con tutti gli intenti buoni possibili e anche corretti economicamente, un po' mi infastidisco, no? Guardi, può anche infastidirsi, però ripeto, potevamo utilizzarli per le scuole, per mettere in sicurezza le scuole. Abbiamo già fatto noi come Regione Marche, abbiamo finanziato un piano finanziato per la ricostruzione di 71 scuole. Per le abitazioni, i cittadini sono fuori abitazione, ancora abbiamo 31.000 sfollati nelle Marche, perché bisogna rimettere in sicurezza le abitazioni e costruire le SAI. Questi sono interventi già finanziati, ci sono i soldi. Allora abbiamo detto, perché andare a finanziare una cosa già con quei 17 milioni che spettano le Marche, già finanziare un'opera che il finanziamento l'ha già ricevuto? Ma io non lo so, adesso io dico Sciapichetti, guardi, la dico a idea mia, no? Puro cosa. Prendo questi 5 milioni e mezzo e pago una serie di controlli straordinari a tappeto sul tutto il patrimonio abitativo delle Marche. Dico ipoteticamente, per collegare le cose. Guardi, questo con quei soldi. È finanziato, quindi non ce l'abbiamo rimessi i soldi, perché sarebbe stato uno sperpero dei 17 milioni. Abbiamo voluto utilizzarli in modo tale che non in un tempo biblico. Se è approvato, poi c'è il comitato dei saggi che approverà o meno l'intervento, se ritiene la proposta che abbiamo fatto, se ritiene di approvarla, noi siamo in grado di far partire i lavori e in un anno e mezzo o due averci un'opera infrastrutturale che ci chiedeva il territorio e che può creare occupazione e che può rilanciare economicamente quella zona e che può dare la possibilità ai giovani di trovare un'occupazione, perché lei mi insegna che nel nord Europa infrastrutture di questo genere creano economia, creano occupazione. Ma guardi Sciapichetti, che non è il punto di fare una grande pista ciclabile nelle Marche, per carità, va benissimo, il tema è da dove prendi i soldi, se le opere fondamentali trovano finanziamento in altro modo, ripeto, fondamentale per noi è ricostruire le scuole laddove sono non a norma. Ne abbiamo finanziate, non ne finanzieremo, c'è il piano approvato per la costruzione di 71 scuole, di cui 12 sono già partiti i lavori, qui per 12. Quindi sulle scuole siamo intervenuti più di 71, tutte quelle che ci hanno segnalato i territori del CRE, i comuni, noi le abbiamo finanziate. Quindi è tutto Sciapichetti, mi scusi, quindi è tutto finanziato, cioè lei ci assicura che tutti i lavori essenziali, tutte le ricostruzioni, tutto finanziato. È finanziato. Tutto finanziato. Tutto finanziato. Con i soldi dello Stato. Allora noi abbiamo detto, guardi io in questo momento. No, allora, io mi fido di lei perché è l'assessore alla protezione civile. Io mi fido di lei perché è l'assessore alla protezione civile. Ovviamente in questo momento non ho la possibilità di verificare tutto questo. Da mio mestiere da giornalista e poi magari ci risentiamo. Presumibilmente a settembre, perché appunto questa è la penultima puntata. La ringrazio. La devo salutare. Perché già mi ha permesso finalmente di esporre serenamente la ratio del provvedimento. Poi ovviamente come ogni cosa è opinabile, è ovvio. Grazie Angelo Sciapichetti, assessore regionale della protezione civile delle Marche, per averci dedicato il suo tempo. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, poi ci ritroviamo e poi questa storia di Venezia e San Marco a numero chiuso, a numero ad accesso prenotato, per così dire, a partire dal 2018. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: incendi quasi 400, roghi attivi al momento. Povertà, erano 4,7 milioni di italiani poveri nel 2016, numeri in linea con quelli dell'anno prima. Nuova intimidazione alla scuola Falcone e Borsellino, un uccello con la testa ammozzata lasciato davanti all'istituto. Spiaggia fascista di Chioggia, è indagato il gestore, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Come sapete, qua su Radio 24 spesso ci siamo occupati, l'abbiamo fatto anche con un viaggio dedicato espressamente a questo, ad un reportage. Ne abbiamo parlato spesso qua ad Effetto giorno del tema dell'overload, del sovraccarico di turisti in alcune città italiane. Ovviamente tra le città che sono più sotto pressione c'è Venezia per tutto quello che rappresenta naturalmente. Oggi l'amministrazione ha presentato un piano di governo territoriale della città. Vi do un titolo giusto per darvi un'idea di alcune indiscrezioni che sono circolate ieri e che sono state pubblicate per esempio dal Corriere della Sera. Dal 2018 Piazza San Marco aperta solo a chi prenota. Abbiamo in linea l'assessore al turismo Paola Marche con noi, buongiorno e bentornata. Buongiorno a voi. Allora, adesso andremo un po' più nel dettaglio sul piano, perché so che è un piano ampio che comprende anche una serie di indicazioni da dare ai turisti, una sorta di moral suasion per farli comportare meglio in città, però la prima domanda gliela devo fare su questo, assessore, su quest'idea di aprire Piazza San Marco solo a chi prenota a partire dal 2018. È una possibilità concreta o no? Guardi, è una possibilità che noi possiamo pensare di sperimentare, nel senso che già ad esempio per il Redentore sperimentiamo un accesso in piazza regolamentato, perché dobbiamo rispondere alle circolari, quindi avremo anche un sistema di conta persone per vedere quante persone accedono. È chiaro che bisogna ragionarci, ma è una possibilità, non è la nostra finalità. Non è la finalità, forse anche perché, assessore, uno dei grandi problemi di Venezia, al di là di Piazza San Marco, è proprio quanta gente finisce per affollarsi anche nelle calli, cioè quanto diventa complicato muoversi all'interno della città, no? In alcuni fine settimana. Ma guardi, la problematicità è una problematicità che si identifica sul normale transito fra Riace e San Marco, perché le persone arrivano dalle spiagge, perché noi abbiamo anche ragionato in questo documento sui giorni critici per fare un bollettino del turismo, per preavvertire chi voglia venire in città sulle criticità che potrebbe affrontare, perché abbiamo la problematicità delle persone che vengono dalle spiagge soprattutto d'estate e prendono e sbarcano. Questo documento si è anche focalizzato proprio sullo sbarco delle barche da Gran Turismo che attraccano a San Zaccaria. In caso di overbooking, diciamo, le vogliamo spostare in altri luoghi che possono essere Sant'Elena o le Fondamente Nuove. Cambiare l'approdo. Questa è una tra le ipotesi che sono in campo. Diciamo che c'è un quadro più generale, un piano appunto, come si diceva, di governo della città. Si parla di innovazione, sostenibilità, valorizzazione dell'offerta culturale e poi appunto gestione dei turisti, che passa attraverso, da quel che abbiamo capito, passa attraverso un piano, come si diceva, di moral suasion, cioè di spiegazione ai turisti di come comportarsi a Venezia nel modo migliore per evitare che che vivano male tutti, che se la vivano male loro e se la vivano male i cittadini. Esattamente, noi lanciamo una campagna di sensibilizzazione internazionale su decoro, l'hashtag sarà Enjoy Respect Venezia. Intendiamo non solo sarà una campagna in situ, ma sarà anche una campagna via Facebook, via social media. Non intendiamo solo vietare, intendiamo anche proporre un dodecalogo dei buoni comportamenti da tenere in città. Voglio ricordare che questo è un documento che viene fuori da un lavoro di 9 mesi, che è il primo documento complessivo sul turismo e che verrà adottato dal Ministero come progetto pilota, perché Venezia è stata scelta come progetto pilota. Quindi questo è un grande risultato per questa amministrazione. Ci fa qualche esempio di questo dodecalogo, qualche esempio di comportamenti di turisti che vorreste, aperte virgolette, correggere? I divieti sono banali, però dobbiamo comunicarli. La città non deve essere sporcata, la città non si deve dare da mangiare ai piccioni, non bisogna tuffarsi, perché sembra molto sembra strano da dire, ma non bisogna tuffarsi. Noi chiaramente non si può campeggiare, tendiamo, perché la piazza non può essere soggetta, non si può bivaccare in piazza, però diamo anche di contro la possibilità, anche attraverso un sito sul Comune di Venezia, di sapere quali sono le aree alternative dove poter andare a consumare un pasto o riposarsi, perché noi non vogliamo solo vietare, ma vogliamo anche accompagnare il turismo nell'ottica del customer care. Chiaramente poi non si compra da merci, non si compra merci abusive. La cosa più banale che le persone non sanno: in città, oltre ad avere un abbigliamento consono, ma questo dovrebbe essere una cosa scontata, nelle cali bisogna tenere la destra, cioè, è come una circolazione stradale e non bisogna fermarsi sui ponti. Allora grazie all'assessore Mar per essere stata con noi. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.